I musicanti di Brema. In un piccolo villaggio tedesco vicino alla città di Brema viveva un asino che lavorava per un mugnaio. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, trasportava pesanti sacchi di grano da macinare al mulino. Quando l'asino incominciò a invecchiare e le sue gambe a piegarsi sotto il peso dei grossi sacchi, si rese conto che presto il mugnaio si sarebbe disfatto di lui e decise di fuggire. Dovete sapere che l'asino amava molto la musica, perciò pensò che avrebbe potuto guadagnarsi da vivere suonando nella banda cittadina. Così, in un bel mattino di sole, si diresse verso la grande città di Brema. Non era andato molto lontano quando si imbatté in un cane che poltriva sul ciglio della strada. «Ciao, vecchio cane», disse. «Che ti succede?» «Sono diventato troppo vecchio per cacciare con gli altri cani», ansimò la bestia. «Sono sicuro che il mio padrone vuole disfarsi di me e perciò sono scappato». «E perché non vieni con me a Brema?» suggerì l'asino. «Voglio entrare nella banda cittadina. Io suonerò il tamburo e tu potresti suonare la tromba». Il cane acconsentì e insieme si diressero verso Brema. Dopo circa un paio d'ore videro un gatto dall'aria infelice, acquattato sul ciglio della strada. «Ciao, vecchio micio!» salutò l'asino. «E a te? Cosa ti succede?» «Oh, sto diventando vecchio», replicò il gatto. «I miei denti non sono aguzzi come prima e non riesco più ad acchiappare. Pare i topi. Ero sicuro che la mia padrona voleva disfarsi di me e così sono scappato». «E perché non vieni con noi a Brema?» disse l'asino. «Andiamo a unirci alla banda cittadina e tu potresti suonare il violino». Il gatto felice acconsentì e tutti e tre si diressero verso Brema. Dopo poche miglia il gruppetto arrivò a una fattoria. Un bel gallo sedeva sullo stipite del cancello cantando a gola spiegata. «Salve, vecchio gallo!» disse l'asino. «Che fai? Il giorno è troppo avanzato per cantare». «Oh, io sono vecchio!» spiegò il gallo. «Il mattino non riesco a svegliarmi e il contadino si arrabbia. Sono sicuro che vuole disfarsi di me». «E perché non scappi con noi a Brema?» replicò l'asino. «Andiamo a suonare nella banda cittadina. Io suonerò il tamburo, il cane la tromba e il gatto il violino. Tu, che hai una bella voce, perché non ti unisci a noi per cantare?» Il gallo rispose di sì e tutte e quattro si diressero verso Brema. Beh, scoprirono che Brema era molto più lontana di quanto avessero creduto e al tramonto non era nemmeno in vista. «Mi sento davvero un po' troppo vecchio per queste avventure», si lamentò il cane, «e ho una gran fame». «Sono molto più stanco di quando andavo a caccia di topi», brontolò tra sé il gatto. «E nella vecchia fattoria di sera faceva molto più caldo», sospirò il gallo. Ma l'asino disse: «Guardate! Laggiù nel bosco c'è una fattoria. Se ci avviciniamo senza far rumore potremmo rifugiarci nel granaio e magari troveremo finalmente anche un po' di cibo». Detto fatto, i quattro viandanti quatti quatti si avvicinarono alla fattoria e l'asino fece capolino alla finestra. «Che cosa vedi?» soffiò il gatto. «C'è una tavola carica di buon cibo e di bevande», sussurrò l'asino. «E intorno al tavolo ci sono tre tipi poco rassicuranti. Sono sicuro che si tratta di ladri». I quattro amici erano troppo affamati per rinunciare a mangiare. Allora si riunirono dietro l'angolo ed elaborarono un piano per far scappare i ladri. L'asino appoggiò gli zoccoli anteriori sul davanzale della finestra. Il cane gli montò sul groppone. Il gatto si arrampicò sulla schiena del cane e il gallo volò sul dorso del gatto. quando l'asino mosse le orecchie, tutti insieme cominciarono a fare più fracasso che potevano. Poi i quattro amici sfondarono la finestra e irruppero nella stanza. I ladri si spaventarono tanto che si precipitarono fuori di corsa e scomparvero nel bosco. Allora l'asino, il cane, il gatto e il gallo si sedettero a tavola e si rimpinzarono di cibo, mangiarono e bevvero fino a scoppiare. Poi spensero la luce e si disposero comodi a dormire. L'asino andò nell'aia e si stese sulla paglia. Il cane si sdraiò vicino alla porta della cucina. Il gatto si raggomitolò vicino al fuoco. Il gallo invece volò sulla cappa del camino. Stanchi e sazi, dopo un po' russavano tutti quanti e sognavano di vivere allegramente a Brema. Intanto i ladri si erano accorti che qualcuno aveva spento la luce. «Siamo stati proprio dei matti a lasciarci spaventare a quel modo», disse il loro capo, e ordinò a uno dei suoi di andare a dare un'occhiata alla casa. Il ladro sgusciò silenziosamente attraverso la finestra rotta della cucina e si dispose ad accendere una candela. Vide gli occhi rotondi del gatto scintillare nel buio e, pensando che fossero due carboni accesi, si avvicinò per accendere la candela. Ma non appena si fu chinato ed ebbe toccato il gatto, questi balzò su soffiando e graffiandogli il volto. Il ladro si ritrasse terrorizzato, ma mentre fuggiva verso la porta, il cane saltò su e gli morsicò una gamba. Il ladro, zoppicando, corse in cortile e l'asino gli assestò un calcio con gli zoccoli, mentre il gallo saltò giù dalla cappa del camino e gli volò sulla testa, graffiandolo tutto. Il povero ladro, che non aveva provato mai uno spavento simile in vita sua, corse a perdifiato nel bosco. «Allora?» chiese impaziente il capo. «Che è successo?» «C'è una strega in quella casa. Mi ha sputato addosso e mi ha graffiato il viso con gli artigli. E c'è un gnomo che mi ha pugnalato la gamba con uno stiletto. E sull'aia c'è un mostro scuro che mi ha bastonato e un grosso pipistrello mi strideva all'orecchio. Non tornerei laggiù nemmeno se mi deste 1.000 zecchini d'oro!» Dopo quella notte di terrore, i ladri si tennero alla larga dalla casa. I quattro amici decisero invece di non allontanarsene più. Ed è per questa ragione che non arrivarono mai a Brema e non si unirono mai alla banda cittadina.